Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'ex ministra Guidi è a Potenza per essere sentita dai magistrati. Dall'inchiesta spunta, in realtà di nuovo, un tentativo di dossieraggio ai danni del ministro Delrio. Ed è in corso l'incontro tra i magistrati italiani e quelli egiziani sul caso Regeni. La Procura di Roma vuole informazioni dettagliate su una decina di persone. Migranti, la conferma dopo le indiscrezioni. Il Papa visiterà l'isola greca di Lesbo il 16 di aprile. Con lui dovrebbe andare anche il patriarca Bartolomeo. Doppio accesso ai vaporetti a Venezia, uno per i residenti, l'altro per i turisti. Il sindaco Brugnaro a Radio 24, fondamentale per lasciare in vita la città. Banda larga, il governo lancia il suo piano entro il 2020, copertura totale ad almeno 30 megabit al secondo, al via in 224 città, dice Renzi. 21 morti, 650 feriti, nessun colpevole. La magistratura tedesca archivia la posizione delle persone sotto processo per la strage alla Love Parade di Duisburg. La madre di Giulia, vittima italiana, chiede giustizia, sarà nostra ospite. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp, e poi c'è il nostro canale Telegram che abbiamo da poco attivato, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque andiamo sull'inchiesta della Procura di Potenza che ha portato alle dimissioni del ministro delle attività produttive, Federica Guidi. Questa mattina, nel giorno della pubblicazione di nuove intercettazioni, l'ex titolare del Dicastero è davanti ai magistrati di Potenza. Un punto con Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, l'interrogatorio è cominciato da circa un'ora e molto presto, se non forse già avvenuto, arriverà una domanda clou da parte dei PM a Federica Guidi, perché al telefono lamentava di sentirsi usata come compagna di un indagato. L'ex ministra potrebbe anche decidere di non rispondere, invece l'ex titolare dello sviluppo economico ha deciso e fatto sapere di voler parlare e dare tutte le spiegazioni ai PM lucani che indagano sul petrolio in Basilicata e a partire da lì anche su tutti gli affari che Gianluca Gianelli, il compagno da cui ora la Guidi sta prendendo le distanze, gli affari suoi e di tutto il giro che lei stessa definiva il quartierino dei furbetti, la cricca. Il timore, il sospetto degli inquirenti è che possano esserci state delle pressioni visto il suo ruolo istituzionale, e cioè che lei si lamentasse di sentirsi usata proprio perché i rappresentanti poi di questi grossi gruppi andavano poi da lei a bustare con molte richieste. Questa è una delle domande che sicuramente le sarà fatta. Da Tempa Rossa ai Pontili di Augusta, a poi aeroporti di Firenze, le mire di Gemelli, per cui la procura torna a chiedere l'arresto dopo il primo stop del GIP, considerandolo un personaggio chiave dell'indagine, erano varie. E lì infatti si incrociano gli appalti, quelli ricevuti e quelli soltanto ambiti, con le decisioni governative, quello che i PM vogliono fare, a cominciare dalle indiscrezioni dalle decisioni che lo stesso indicazioni che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico diede a Maria Elena Boschi, come la stessa ministra ha raccontato ai PM nell'interrogatorio sul famoso emendamento su Tempa Rossa messo e poi modificato. Interrogatorio delicato dunque per la Guidi, per il suo ruolo rispetto al padre di suo figlio, ma anche rispetto alla condotta del governo. Interrogatorio che non toccherà le scelte legislative, ma che andrà a verificare l'esistenza di eventuali pressioni. E a proposito di pressioni, dalle intercettazioni, come ricordavi nei titoli, emerge anche il tentativo di un dossieraggio a carico del ministro Graziano Del Rio, con foto appunto dell'allora sindaco di Reggio Emilia con Cutresi. Si tratta di un episodio che è in qualche modo già emerso all'atere dell'inchiesta Emilia, quella che portò e decapitò le cosche di 'Ndrangheta in Emilia Romagna, e si era in qualche modo già ventilato di elementi che potessero toccare, diciamo, anche senza alcun genere di rilievo di tipo penale, l'allora sindaco di Reggio Emilia. Questo sarà un elemento da approfondire, soprattutto rispetto all'utilizzo che di eventuali foto inquirenti, nello specifico dei carabinieri, volessero farlo, quindi un'ipotesi di un ricatto. Simone. Grazie Raffaella Calandra. Calandra per questo aggiornamento. Oggi è una giornata importante anche sul fronte dell'inchiesta che riguarda la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni, ricercatore italiano morto al Cairo. Inizia il vertice molto atteso tra i magistrati italiani e quelli egiziani nella capitale, dalla quale ci aggiorna Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Incontro che si sta svolgendo nella scuola superiore di polizia, blindatissima caserma di via Guido Reni in zona Flaminio. Il vertice tra gli inquirenti e gli investigatori d'Italia ed Egitto che indagano sulla morte di Giulio Regeni è iniziato attorno alle 10.30. Partecipano tra gli altri per l'Italia il procuratore di Roma Pignatone, il direttore dello SCO Cortese e il comandante del ROS Governale. Per l'Egitto sono invece presenti due magistrati e tre ufficiali di polizia. Gli egiziani arrivano al tavolo con un dossier sulla morte del ricercatore italiano di 2.000 pagine che include un esame compiuto su 200 persone di diverse nazionalità che avevano rapporti con la vittima, ma non è detto che si tratti dei documenti richiesti più volte dall'Italia, ritenuti indispensabili per fare passi in avanti verso la verità, soprattutto dopo i vari depistaggi. L'interesse italiano si concentra allora sui seguenti punti: i video dei luoghi frequentati da Regeni il 25 gennaio, giorno della scomparsa, i dati poi raccolti dalle celle telefoniche, copia del verbale di ritrovamento del cadavere di Giulio e inoltre i verbali di tutte le testimonianze raccolte dagli investigatori egiziani, con particolare attenzione su 10 persone. E per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Ci si divide tra chi ritiene che il servizio pubblico non si debba prestare ad una cosa di questo genere e chi invece che sia preciso dovere di un giornalista, in questo caso Bruno Vespa, di non perdere un'occasione di intervistare il figlio di Rina. Il caso è diventato politico dopo la puntata di Porta a Porta di ieri. Un caso che diventa politico, beh, succede abbastanza spesso con la RAI. Ne parliamo con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. I vertici della RAI sono stati chiamati urgentemente in Parlamento a rispondere dell'intervista del figlio di Dottor Riina a Porta a Porta. Il presidente Monica Maggione e il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto verranno ascoltati nel pomeriggio in commissione antimafia. L'azienda ha difeso fino all'ultimo la decisione di mandare in onda l'intervista, ma per il presidente della commissione antimafia Rosy Bindi si tratta di negazionismo, per il presidente del Senato Pietro Grasso si tratta di mani macchiate di sangue. Contrari anche l'USIGRAI, il sindacato dei giornalisti RAI e la Federazione Nazionale della stampa. Non manca la polemica politica. Il vicepresidente della commissione antimafia Claudio Fava attacca quello della vigilanza Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. È quanto mai singolare si sia dovuta muovere prima la commissione antimafia in assenza di quella di vigilanza RAI. Sarebbe opportuno che il presidente della vigilanza Fico dichiarasse meno e interpretasse meglio. Ma Fico risponde: faremo presto un'audizione al direttore di RAI 1 Andrea Fabiano e ci sarà un atto di indirizzo sugli ospiti in trasmissioni come Porta a Porta. Nell'intervista Salvo Riina ha detto di amare suo padre, di non essere lui a giudicarlo e di non condividerne l'arresto. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Ci sono interrogativi riguardo alla direzione nella quale andrà l'Europa e alla sua capacità di tenuta a fronte di nuovi shock. Lo scrive Mario Draghi nella prefazione al rapporto della Banca Centrale Europea 2015. È importante, scrive ancora, che il risanamento di bilancio sia favorevole alla crescita. Francoforte, tra l'altro, invita i paesi che devono ancora fare sforzi per l'aggiustamento dei conti, fra i quali Spagna e Italia, a continuare con la revisione della spesa e rendere il sistema tributario più favorevole alla crescita e limitare l'evasione fiscale. In primo piano continua a restare la vicenda di Bagnoli. Ieri, come saprete, come vi abbiamo ampiamente raccontato, il presidente del Consiglio Renzi è stato a Napoli e ha partecipato alla cabina di regia sull'area ex Italsider, promettendo un investimento da 272 milioni per la bonifica e la riqualificazione. E per strada, intanto, manifestazioni e scontri. Il sindaco De Magistris che attacca pesantemente Renzi. De Magistris questa mattina è tornato a parlare in una conferenza stampa. Siamo in linea con Laura Viggiano che l'ha seguita. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. La conferenza è finita pochi minuti fa. De Magistris dice che se quello che ha detto Renzi ieri fosse vero, cioè che sarà fatta la bonifica, non ci saranno colate di cemento e che sarà rispettato il piano regolatore di Vecchio De Lucia e quindi del comune, allora ci troveremo di fronte ad un risultato molto importante per la città e che ci farebbe fare un balzo in avanti. Sostanzialmente Trapela molto chiaramente, lo dice anche chiaramente, che mentre il risultato delle dichiarazioni è positivo, insomma c'è poca possibilità di credere, insomma, che tutto questo sarà realizzato, e infatti cita un paio di contraddizioni che avrebbe fatto il Premier secondo De Magistris, relative ai tempi poco verosimili e all'edificazione che dovrebbe interessare l'isolotto di Nisida. Il sindaco difende la lotta per la città realizzata in questi anni e respinge ammettendo le accuse di aver scatenato azioni violente ieri, quindi di scontri, dicendo che chi lo afferma partecipa all'ideazione di certe strategie o è un bugiardo. Ribadisce l'importanza degli atti fatti dal comune per Bagnoli, ricorda l'ordinanza con cui il 3 dicembre del 2013 sono stati individuati i responsabili dello scempio compiuto a Bagnoli e che dovranno bonificare e risarcire il danno. Dunque cita Fintecna e Cementi, l'ordinanza impugnata, lo ricordiamo, più volte e sempre confermata. Di qui arriva a dire che l'impegno finanziario per il Premier, sempre secondo quello che ha affermato il sindaco di Napoli oggi in conferenza stampa, vorrebbe far passare come un regalo alla città, in realtà è un atto dovuto. De Magistris continua anche oggi a fare un parallelo con quello che sta accadendo in Basilicata nel dire e nel confermare che è disponibile ad un incontro che continuerà a chiedere e su quale continuerà a lavorare, insomma, non andrà mai però in cabina di regia, e ricorda che nella stessa cabina di regia per Bagnoli doveva esserci anche l'ex ministro Guidi. A quel punto fa una battuta in napoletano, insomma, avrei dovuto sedermi su quella seggiola, Tinatella che è la seggiola, insomma, in pratica continua a ribadire che la cabina di regia, così come è strutturata, non è assolutamente compatibile e legittima da un punto di vista istituzionale. Ti ringrazio. Grazie a Laura Viggiano per questo aggiornamento. Non tutti sono napoletani e non tutti sono a conoscenza di quali sono le vicende di Bagnoli. Dunque ricostruiamole in questo servizio. L'insenatura di Bagnoli, un tratto di mare tra i più belli al mondo, dove sorse l'Ital Sidere per il rilancio dell'intero mezzogiorno. 81 anni di attività nel 1992, la chiusura e l'inizio di un dibattito sulla bonifica dell'area ancora oggi in corso. Dibattito passato dal piano regolatore comunale delle amministrazioni PD alla società Bagnoli Futura, fallita nel maggio 2014. Si riparte il 14 agosto di 2 anni fa. Il premier Renzi firma un patto per Bagnoli in piena concordia con il sindaco De Magistris. Pochi giorni dopo, però, il premier annuncia il commissariamento della zona nell'ambito del decreto Sblocca Italia. Comitati di quartiere, associazioni, cittadini scendono in piazza, vogliono partecipare alla bonifica, non vogliono ordini dall'alto. Il comune si schiera con loro ufficialmente il 2 dicembre, quando l'area viene posta sotto sequestro. Tradito il patto di agosto, annuncia De Magistris. È l'inizio dell'allontanamento progressivo tra il primo cittadino ed il premier, seguito da una guerra di ricorsi e da un confronto verbale sempre più aspro. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo ha presentato questa mattina il suo piano per la banda larga. Vediamo di raccontare che cosa contiene con Giorgio Stamatopoulos, che ha seguito la conferenza stampa. Giorgio. Sì, una conferenza stampa cominciata con il Presidente del Consiglio, che non ha risparmiato. Allora Giorgio ti fermo, perché mi sembra che decisamente la qualità audio non ci sia, probabilmente non prende bene la sala stampa di Palazzo Chigi, e questo lo sappiamo per esperienza diretta. Dunque passiamo ad un altro argomento e magari proviamo a recuperare Stamatopoulos più tardi per farci dare qualche dettaglio in più, e parliamo di una vicenda che riguarda Venezia. Un doppio accesso per i vaporetti è quello che si pensa di fare. Chi vive o lavora a Venezia avrà un ingresso prioritario rispetto ai turisti e vi accederà con una carta concessa appunto solo ai residenti. La sperimentazione inizierà da giugno, lo spiega il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, intervistato da Cristina Carpinelli, che spiega anche le ragioni di tutto questo. L'idea è quella di provare l'entrata priority, come è negli aeroporti, dove diamo semplicemente una carta particolare a chi è certificato residente o lavoratore. Abbiamo bisogno di provvedimenti speciali a Venezia. Abbiamo trovato 800 milioni di euro di debito. Abbiamo una legge speciale che non è finanziata più da 10 anni. Stanno di fatto crollando gli intonaci, le bricole, non ci sono i soldi, neanche il magistrato Acque per mettere a posto. Tutti ci danno consigli di come fare, salvo poi non fare nulla di concreto, e noi pensiamo di voler provare a vivere. Stiamo facendo un tentativo motivo per riuscire a risolvere una, proprio la vita di, delle persone che abitano e lavorano a Venezia. È fondamentale perché la città resti viva, perché anche i turisti e le persone che amano questa città vogliono vederla viva, non vogliono vedere un luogo di fatto cartolina o cartone o plastica. E da quando si parte con la sperimentazione? Da giugno, giusto? Sì, noi speriamo di poter mettere in funzione da giugno, che saranno gli approdi più importanti, non tutti, perché alcuni hanno tutta questa ressa, diciamo. Sì, le porte della città, Piazzale Roma, la ferrovia, Rialto, San Marco, il Lido e Murano, perché lì c'è la grossa industria del vetro di Murano, che ha gli operai, insomma, perché sono le persone che finiscono di lavorare. Dopo 8 che uno soffia il vetro, mettersi anche in coda, dopo, ci sembra assolutamente irriguardoso. Commentava Paolo Corleoni dalla regia che, insomma, è un servizio sulla banda larga e non riusciamo nemmeno a tenere una connessione telefonica. Ci riproviamo. Giorgio Stamatopoulos per il piano del governo sulla banda larga. Giorgio. Eccoci qua, sì, speriamo di essere più fortunati stavolta, dovrei essermi messo al riparo da eventuali disturbi o cadute di segnale, insomma sono in uno spazio aperto, sono davanti a Palazzo Chigi. Vai, racconta. La conferenza stampa, come sapete, sul piatto il governo ha messo 1,6 miliardi totali, erano 2,2 l'anno scorso, attraverso ovviamente il CIPE. Sono scesi perché c'è chi, come Telecom, ha aumentato la sua quota parte. Parliamo appunto del tentativo di finalmente portare su tutta la penisola la banda larga, ovvero la connessione internet veloce, un obiettivo ambizioso con scadenze temporali che, se vogliamo, insomma, si riconfermano molto ambiziose anch'esse, benché quelle precedenti date fin qui siano state tutto sommato disattese. Come sapete, il 2018 era la deadline fissata già qualche tempo fa dal Presidente del Consiglio, che oggi l'ha spostata al 2020. Con lui 5 sindaci di altrettante città pronte ad aprire questa pista, nonché i vertici di Enel, Wind e Vodafone, che sono i primi partner. Da un lato appunto Enel, come sapete, che si occuperà di cablare tutta la sua rete elettrica capillare fissa nelle tantissime città italiane, grandi escluse, lo sapete, Roma e Milano, dove ci sono altri operatori elettrici, sulle quali appunto poi correrà la stessa fibra ottica. Dicevamo, un progetto che dovrebbe alla fine coinvolgere 224 città nel totale. La prima parte della conferenza stampa, dominata dall'intervento del Presidente del Consiglio, che non si è risparmiato in battute, che hanno ripercorso gli ultimi fatti di cronaca, anche giudiziaria di questi giorni, insomma, e ha rivendicato ancora come unica colpa sua e del suo governo quello di voler sbloccare le infrastrutture, le opere pubbliche e anche aiutare quelle private. E se questo appunto significa rischiare qualcosa, ebbene sono pronti a farlo. Ha citato Bagnoli, Pompei, la variante di Valico e tante altre cose. Poi però, parlando di infrastrutture, ha detto come tutti sono coscienti, ormai le infrastrutture sono anche quelle digitali, non sono solo più quelle tradizionali. Dunque appuntamento al 2020 per portare a casa il risultato, coprire tutto a 30 megabit per metà degli abbonamenti a 50 megabit. Insomma, come dicevamo, naturalmente ci sono poi le zone diciamo così a fallimento, e sono quelle sulle quali poi appunto interviene il governo con i propri soldi. Sulla questione degli operatori di telefonia non ci saranno grandi competizioni di mercato che possano alterare i prezzi. Questa è stata una rassicurazione arrivata sia da Wind che da Vodafone. Nel mercato che detta legge ed è competitivo, dunque non ci saranno truffe di mezzo. E dunque per il momento questi sono, diciamo, i tratti salienti. Un altro appuntamento importante è il 29 aprile, lo sapete, 30 anni, l'86 appunto di questa data, la prima connessione internet in Italia. Per festeggiarla in Giappone al G7 l'Italia farà la sua parte e proverà anche in quel caso a coinvolgere anche operatori stranieri in questo grande progetto. Grazie Giorgio Stamatopoulos per l'esaustiva cronaca. Noi tra un attimo ci ritroveremo dopo il traffico e torneremo con la memoria al 24 luglio del 2010, una vicenda che forse ricorderete. Si tratta della Love Parade di Duisburg. Che cos'è la Love Parade? È un enorme rave, per farla molto semplice. Un giorno nell'organizzazione di questa Love Parade in Germania qualcosa va storto nell'organizzazione, in come sono fatte le cose. Parte una ressa incredibile, perdono la vita 21 ragazzi, 600, ci sono 650 feriti. Tra questi 21 ragazzi c'era anche una ragazza italiana. Che cosa è successo? È successo che nei giorni scorsi i magistrati tedeschi hanno deciso di archiviare le posizioni deposizioni delle persone che sono andate a processo. Si tratta di 6 funzionari comunali e di 4 tra gli organizzatori. E la madre e la ragazza italiana che ha perso la vita in quell'occasione chiede giustizia. È con lei che parleremo subito dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nei nostri titoli, l'ex ministra Guidi a Potenza per essere sentita dai magistrati, dall'inchiesta spunta un tentativo di dossieraggio ai danni del ministro Delrio. Ed è in corso l'incontro tra i magistrati italiani e quelli egiziani sul caso Regeni. La Procura di Roma vuole informazioni dettagliate, a quanto pare, su una decina di persone. La banda larga, il governo lancia il suo piano, ve l'abbiamo appena raccontato, entro il 2020 copertura totale ad almeno 30 megabit al secondo, al via in 224 città, dice Renzi. Sui migranti, la conferma arriva dopo le indiscrezioni, il Papa visiterà l'isola greca di Lesbo il 16 di aprile. E come si diceva, veniamo ad una vicenda che risale ormai a 6 anni fa, che vi raccontammo ampiamente anche qua su Radio 24, ed è appunto la vicenda della Love Parade di Duisburg, quando qualcosa appunto andò storto, evidentemente nell'organizzazione, e morirono 21 persone e 650 rimasero ferite in una ressa incredibile, della quale forse possiamo far sentire un passaggio. Non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Allora, passiamo dunque a parlare con in quell'occasione perse la vita anche una ragazza italiana, Giulia Minola. Abbiamo in linea con noi Nadia Zanacchi, che è la madre di Giulia, che era la madre di Giulia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, cosa è successo? È successo che l'altro giorno i giudici tedeschi hanno stabilito di archiviare le posizioni di 6 funzionari comunali e 4 organizzatori di quella Love Parade, di fatto lasciando quella tragedia senza alcun colpevole. Come l'ha saputo lei? Posso solo dire una cosa prima? Prego. Che lei ha parlato di rave. La differenza tra questo concerto e i rave è che questo era un concerto organizzato dalla città di Duisburg, non era un rave autonomo, autogestito. Sì, sì, sì, sì. Questo lo sappiamo, è chiaro, una manifestazione che si svolge ogni anno e non solo a Duisburg, la Love Parade. Insomma. Esatto, poi quell'anno era per celebrare l'anno della cultura in Germania. Comunque la notizia l'ho saputa ieri mattina attraverso messaggi che ci scambiamo con gli altri genitori coinvolti. Non ha avuto notizie che le sono arrivate direttamente dagli organismi giudiziari tedeschi? No. Le istituzioni tedesche non esistono per noi. Non ci sono noi mai... abbiamo gestito, cioè, ci siamo sentiti tra di noi. Poi mi ha anche chiamato il console italiano perché è una persona molto disponibile che sta facendo di tutto per aiutarci e basta. Questo è il mio avvocato, però istituzioni tedesche no. Senta, signora, come si è sentita quando le hanno dato la notizia? Da un lato era come se te lo aspettassi, perché dopo 6 anni già l'anno scorso avevano prescritto la posizione della polizia, e dopo 2 anni di inchieste e un anno di studi da parte del giudice che avrebbe dovuto decidere il luogo a procedere, cominciavi a avere qualche sospetto, però è stato un colpo. Perché vuol dire che come se non fosse successo niente. Lo ricordiamo, in quella vicenda in realtà le responsabilità ci apparvero molto chiare a tutti fin dall'inizio, in termini di ricostruzione, in termini semplicemente di quello che successe, perché a un certo punto si scatenò una ressa e né i poliziotti tedeschi seppero come gestirla e nemmeno gli organizzatori, e fecero confluire di fatto tutta questa gente all'interno di un tunnel, ed è là che sostanzialmente avvenne tutto, in quell'area che avvenne tutto, e quindi ci fu proprio un difetto di organizzazione molto grave, delle responsabilità che a tutti noi che vedemmo anche solo le immagini sembrarono molto evidenti. Voi immagino che farete ricorso. Sì, l'abbiamo già fatto perché comunque c'era la possibilità di fare ricorso immediatamente per vedere di riaprire la possibilità di andare a un processo. Però tutto sta alla corte, una specie di corte d'appello di Düsseldorf che deve decidere sulla base dei documenti che ha in mano. Per il momento... E comunque in Germania lei parlava di responsabilità evidenti, ma in Germania non sono così evidenti, perché non esiste la responsabilità del capo, per esempio. Quindi... per quello che non è stato indagato nessuno dei veri responsabili, ma solo... Cioè, in sostanza sono stati indagati solo coloro che erano fisicamente là, in sostanza? No, comune coloro che hanno firmato le varie deleghe, i permessi, eccetera, dell'organizzazione, anche lì delle seconde file, che erano quelle che hanno... operativamente hanno lavorato, ma di persone che erano presenti, quindi la polizia, nessuno. Ma soprattutto nessuno, né l'organizzatore Mr. Schaller, né il sindaco, né il capo della polizia, perché comunque loro, per la giustizia tedesca, loro non sono ritenuti responsabili, nonostante siano coloro che hanno spinto per farlo. Per chiudere, signora, mi sembra di aver capito che stiate pensando a delle iniziative comuni anche con altri genitori che hanno perso o parenti, ovviamente, che hanno perso dei loro cari in quella tragedia. Sì, noi cerchiamo di coordinarci. Il problema è che anche in quel campo gli avvocati delle varie persone fanno di tutto per non arrivare a, come lei poteva pensare, una class action o comunque a qualcosa di coordinato. Anche se secondo me o siamo uniti e cerchiamo di lavorare insieme, oppure non si arriva da nessuna parte. Abbiamo pensato anche a una commissione d'inchiesta, però sono tutte cose che dipendono dalla disponibilità politica o di altri. E pensate anche a qualche iniziativa, come dire, nei confronti del governo italiano, chiedere anche al governo italiano, se sta pensando lei nella fattispecie, perché l'unica vittima italiana è stata sua figlia, chiedere un supporto al governo italiano in questa azione? Io l'avevo già chiesto al presidente Mattarella, che mi aveva fatto seguire nella vicenda dal console del Land di Colonia. E comunque adesso pensiamo di richiedere ancora un appoggio, perché se non abbiamo gli appoggi politici, secondo me non arriviamo da nessuna parte. Grazie a Nadia Zanacchi, madre di Giulia Minola, morta appunto nella tragedia di Duisburg alla Love Parade del 24 luglio del 2010. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. E poi andremo su un argomento un po' più leggero. È una decisione di un sindaco di un paese nella provincia di Treviso, si chiama Spresiano, che riguarda il gioco d'azzardo. Come sapete, si moltiplicano le iniziative dei sindaci che riguardano soprattutto le new slot, cioè il fatto di metterle più lontane dalle scuole, oppure chiudere le parti nelle quali ci sono le new slot in certi orari della giornata. Ebbene, questo sindaco ha deciso di estendere il tutto anche ai gratta e vinci e all'otto, creando qualche problema e qualche discussione ovviamente anche all'interno del comune e soprattutto tra i suoi concittadini che magari sono proprietari di locali dove i gratta e vinci si vendono. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, aprendo su una notizia appena battuta dalle agenzie che arriva, che è una dichiarazione della ministra dell'interno austriaco Johann Mikl-Leitner, la quale dice: l'Italia non può contare sul fatto che il Brennero resti aperto se si arriva a flussi incontrollati di migranti, quindi si apre un capitolo anche su questo fronte. Le altre notizie: l'ex ministra Guidi a Potenza per essere sentita dai magistrati, dall'inchiesta spunta un tentativo di dossieraggio ai danni del ministro Del Rio. È in corso l'incontro tra i magistrati italiani e quelli egiziani sul caso Regeni, la procura di Roma vuole acquisire tabulati e molto altro, anche informazioni dettagliate su una decina di persone. Il doppio accesso ai vaporetti a Venezia, uno per i residenti, l'altro per i turisti. Il sindaco Brugnaro a Radio 24 dice: è fondamentale per lasciare in vita la città. E poi il piano sulla banda larga. Il governo lancia il piano, appunto, entro il 2020, copertura totale ad almeno 30 megabit al secondo. Questo l'obiettivo. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, una precisazione intanto per un ascoltatore che ci scrive via WhatsApp al 349-238-6666. Abbiamo parlato della connessione del piano per la banda larga del governo. L'ascoltatore ci scrive: si parla di 30 megabyte e non bit. No, in realtà è esattamente quello, si parla di bit al secondo per quanto riguarda le connessioni internet. Considerate che per fare un byte ci vogliono circa 8 bit, e quindi questa è la misura che avete, così avete anche chiaro nel momento nel quale misurate la vostra connessione e vi rendete conto, pensate di avere 30 megabyte al secondo e magari non ci mette un secondo a scaricare 30 megabyte, esattamente per questo motivo. Parliamo di gioco d'azzardo adesso e lo facciamo con Marco Della Pietra, che è il sindaco di Spresiano, siamo in provincia di Treviso. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, parliamo di gioco d'azzardo perché? Perché molti sindaci stanno intervenendo sul tema delle slot, delle new slot, le stanno mettendo ovviamente più lontane dalle scuole, stanno stabilendo degli orari nei quali non si può andare a giocare, delle limitazioni più forti per evitare che il gioco d'azzardo appunto diventi eccessivo nel loro comune di competenza. Lei però ha deciso di allargare tutto questo, di farlo con le scommesse sportive, il lotto, il super enalotto e anche i gratta e vinci. Ci spiega come mai? Perché abbiamo ricevuto una relazione da parte della nostra azienda USL, la USL 9 di Treviso, che inseriva tra i giochi preferiti dei giovani proprio il gratta e vinci in pole position, dei giovani di ambo i sessi tra l'altro, e seguiti dalle scommesse sportive e poi dal lotto e superenalotto. Per cui nel momento in cui si decide di fare prevenzione in maniera seria e costruttiva, già sicuramente reinterpretare quella che era la visione fino ad oggi, quindi non solo più le slot machine o le videolotterie, ma anche tutti gli altri giochi d'azzardo leciti. Senta, mi scusi, voi l'avete approvato oggi questo nuovo regolamento? Ieri sera. E che cosa ci dice cosa prevede esattamente? Ma prevede che non si possano aprire nuovi locali con nuove licenze. Chiaramente abbiamo messo anche noi la localizzazione, quindi 500 metri dai luoghi sensibili, piuttosto anche che degli standard parcheggio maggiorati per questo tipo di attività, però appunto la grossa novità è il fatto di aver equiparato alle slot machine anche tutti gli altri giochi d'azzardo lecito, per cui da, non proprio da domani, ma tra un mese, quando diventerà effettivamente esecutivo il regolamento, non si potranno più aprire nel territorio comunale questo tipo di attività. Però ci sono delle attività che già ci sono, sindaco, sì. E a queste lei crea un discreto problema. Anche quelli sono concittadini suoi, eh? In che senso? No, nel senso, immagino che il proprietario di un bar o di un tabaccaio che vende i gratta e vinci qualche problema ce l'avrà, no? Ma in realtà forse è proprio il contrario, forse sono anche più tutelati. Perché chi ce li ha continua a venderli, l'unica limitazione è quella dell'orario, che tra l'altro comunque all'interno del regolamento risulta essere piuttosto ampio, perché si parla dalle 8 alle 23 nelle zone residenziali e dalle 8 alle 2 nelle altre zone. È chiaro che abbiamo messo, soprattutto per quanto riguarda l'inizio di questa fascia, le 8 come orario base, proprio per evitare che i giovani vadano ad acquistare il gratta e vinci prima di andare a scuola. però di fatto non è una limitazione così, così dura. Lo è se si guarda al fatto che noi abbiamo fotografato l'immagine dello stato attuale del paese e quindi non si può implementare quello che già c'è. Quindi magari un bar che vuole mettere gratta e vinci adesso non lo può fare. Non teme che sia giudicato illegale, che qualcuno faccia ricorso al TAR per questo? Allora, tutte le ordinanze, tutti i regolamenti comunali sono passibili di ricorso al TAR, questo è poco ma sicuro. È vero che se però non si fa nulla e non ci si muove, allora non ci si deve nemmeno aspettare nulla. Io ho i cittadini che vengono a parlare con me e si lamentano del GAP, no? Del gioco azzardo patologico e della ludopatia, come tutti la intendiamo. Vengono da me a piangere delle situazioni tragiche, perché mi creda che si parla di situazioni tragiche. Ma anche per il lotto, sindaco? Sì, anche per il lotto. Insomma, sappiamo tutti come funziona, no? Anche il lotto, soprattutto quando si parla dell'estratto che si va a raddoppiare. Insomma, le dico, se si guardano e si analizzano le cause della ludopatia, dobbiamo prendere in considerazione un po' tutto. Qui è vero che è fortemente provocatorio il regolamento, sì. È vero che è la prima, la prima azione di questo tipo, ma è fatta perché abbiamo bisogno anche noi sindaci di risposte dall'alto, perché lo Stato da un lato dà... Quindi vuole una reazione, con questo regolamento lei chiede una reazione sostanzialmente. Sicuramente, perché se lo Stato dice va bene, ci va bene così, ma almeno lo dice. Invece lascia la patata bollente nella mano dei sindaci che obiettivamente più di questo non possono fare, però si trovano ad avere contatto diretto con i cittadini in difficoltà. È vero che se i comuni a me limitrofi non dovessero seguirmi o comunque adottare delle restrizioni simili, cadrebbe tutto. Quindi c'è anche questo. Sì. Sindaco, una questione di fact checking, per così dire. Un ascoltatore ci scrive che nel suo paese ha sede una grossa società di software per videopoker. È vera questa cosa? Guardi, me lo dice lui, adesso farò una... pura curiosità, no? Perché nel posto dove si svolge questa battaglia contro il gioco... Però sì, voglio dire, è simpatico, sì, è simpatica la coincidenza, ma voglio dire, non... Non è di certo questo il punto. No, certo. Non lo so, forse perché è anche da poco che sono sindaco. Non conosco proprio tutte le realtà sul territorio, ma mi informerò a riguardo. La ringrazio, grazie Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, provincia di Treviso, per essere stato con noi. Buona giornata. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.